Avventurieri, i carovanieri impiegano solo 30 secondi per percorrere 600 metri. Voi ne impieghereste 100. La rincorsa non servirebbe, sono già troppo lontani.